Falqui, basta la parola. Vi presenta 9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon 27 di giugno e abbiamo sentito il giornale radio e gli ultimi aggiornamenti di ciò che obbligatoriamente porterà l'informazione italiana oggi ad avere una orecchia ben tesa nei confronti della Val di Susa. Perché? Perché da stamane, come annunciato, è in atto l'ennesimo confronto, chiamarlo dialogo sarebbe un'espressione velleitaria, un dialogo non è, l'ennesimo confronto energico tra forze dell'ordine e manifestanti del NOTAV. Siamo a quanti anni di distanza dall'inizio del progetto? Pensate un pochino, 20 anni? Sì, sono praticamente 20 anni da che l'Italia tenta di risolvere questo problema della connessione occidentale con l'alta capacità e l'alta velocità. Anzi, a dire la verità, sono 30 anni, perché il primo studio di fattibilità venne addirittura affidato per la prima volta dagli enti ferroviari d'Italia e Francia nell'ottobre del 1981. Pensate un pochino. Poi in realtà la Torino-Lione appare per la prima volta in un testo legislativo nel settembre del 94. L'accordo intergovernativo per la realizzazione della ferrovia viene firmato a gennaio del 2001 e quindi siamo arrivati a 10 anni fa e da allora, dal 2001, inizia il movimento NOTAV. Sindaci, comitati della Val di Susa e tra il 2003 e il 2004 si radica nel territorio un'informazione e controinformazione su quello che sarà il primo progetto intorno al tracciato e quando si arriva poi al febbraio del 95, quando una società italo-francese affida i lavori per il tunnel esplorativo a Venaus in Valle Cenischia e si arriva a novembre al primo cantiere le prime ricerche diagnostiche, ecco che i disordini sono già scoppiati e da allora, dal 2005 in avanti sistematicamente alternato nel tempo il riesplodere di confronti tra forze dell'ordine e manifestanti NOTAV intorno al tentativo di avvio di cantieri, prospezioni eccetera eccetera. Nel 2005 proprio a seguito di questi primi scontri nasce l'osservatorio e alla testa di questo osservatorio tecnico una modalità di conciliare cioè il confronto con tutti i rappresentanti locali e con tutti i comitati fioriti in valle e con coloro che sono responsabili dell'avanzamento del progetto, viene chiamato come commissario di governo Mario Virano, che viene considerato per lungo tempo il massimo della mediazione possibile, dell'apertura, della comprensione rispetto al movimento NOTAV radicatosi in Val di Susa. Nel 2005, a fine del 2005, quindi dopo la prima fase di incidenti belli energici, sembra che nasca un'intesa tra i NOTAV e il commissario europeo. Nel 2007 l'Unione Europea assegna a Francia e Italia un primo contributo di 672 milioni per la parte comune della Torino-Lione, cambia progetto in effetti proprio a seguito dell'intesa del 2005, il percorso della NOTAV, e così si arriva a fine giugno del 2008 a una definizione di un nuovo progetto di minor impatto e naturalmente di maggior costo, come ovvio, e nel gennaio 2010 vengono avviati i sondaggi geognostici che dovrebbero essere in molte decine di punti, se non che a quel punto si riaccende comunque la protesta NOTAV e arriviamo praticamente a oggi. Qualche sassaiola a Chiomonte l'anno scorso, a maggio iniziano ad arrivare le prime squadre di operai per recintare il cantiere di Chiomonte, dove appunto bisogna fare un altro sondaggio diagnostico, ma vengono fermati da una sassaiola ed eccoci qua agli scontri di stamane, perché nel frattempo il commissario dei trasporti dell'Unione Europea Siim Kallas ha ribadito che i lavori o vengono avviati questa volta per l'ultima volta entro il 30 giugno e la Torino-Lione si rimette nelle condizioni di recuperare almeno parte del ritardo che ha accumulato, perché in teoria deve essere un esercizio nel 2023, non proprio domani, ma nel 2023, oppure basta, se i cantieri non si avviano, al 30 giugno si perdono i soldi. Naturalmente, Che cosa significa avviare i cantieri? Punto interrogativo. La vicenda della Notav ci ha insegnato che le possibilità in Italia di interpretare le formule sono più o meno quanto la via del Signore, cioè infinite. E c'è chi sostiene che se il governo prova, come sta provando, con le garanzie del ministro dell'interno che si è molto esposto dicendo metterò le forze dell'ordine in condizione di aprire il cantiere, ma se poi come al solito il cantiere si ferma dopo due giorni di dure manifestazioni, il governo italiano sarà nelle condizioni di poter dire all'Unione Europea e alla Francia: come vedete il cantiere è iniziato, magari per 5 metri. Al di là di questa eventualità, che non è poi così marziana come sembra, perché l'Italia ci ha abituato a questo e ad altro, il punto di fondo resta anche nel nuovo tracciato più economico. La stampa l'ha presentato in questi giorni venendo incontro anche alla richiesta di risparmio, un progetto leggero richiesto anche dal ministro dell'economia Tremonti. In questa nuova variante si può considerare quest'opera A come necessaria in equilibrio rispetto a conti, redditualità, sfruttamento negli anni futuri rispetto al bilancio dei costi, oppure, malgrado sia da valutare positivamente, è la semplice riproposizione di una battaglia puramente ideologica che non conta più per quello che vede nei pareri contrapposti dei tecnici. Gli eserciti tecnici contrapposti sono molto estesi e con convinzioni pressoché incoercibili, nessuno riesce a convincere l'altro, ma sono semplicemente la rappresentazione di un'Italia spaccata su qualunque grande opera pubblica, è diventato un puro scontro ideologico. Ecco, secondo interrogativo. Terzo interrogativo: ma se fosse così, perché nel nord-est? Lo vedremo andando più avanti invece con la trasmissione. Gli imprenditori dicono: qua i soldi non ci sono, ma la TAV, l'alta capacità ce la facciamo noi, ce la facciamo finanziare dai privati perché non ne possiamo più di essere tagliati fuori. Esistono davvero due Italie completamente diverso anche nel nord-est? Alla fine la popolazione farà come in Val di Susa, a Chiomonte, ci sarà il raduno di tutti gli ideologici oppositori alle opere, insieme a molti economisti che però fanno un conto, lo vedremo anche loro, non ideologico ma numeri alla mano, del fatto che poi bisognerebbe probabilmente avere una diversa valutazione costi-benefici e indursi tutti a essere un pochino più prudenti nell'imbarcarsi su questi grandi assi europei. Cercheremo di rispondere a tutti questi interrogativi. Io intanto do sempre un occhio alle agenzie per vedere quelli che sono gli ultimi sviluppi. Per il momento Ruspa rimuove blocchi sul percorso verso area Maddalena e quindi siamo al procedere ancora delle forze dell'ordine. Iniziamo a presentare gli ospiti di questa prima parte della trasmissione. Abbiamo Enzo Ghigo con noi, senatore Enzo Ghigo, coordinatore regionale del PDL in Piemonte. Buongiorno a Ghigo. Buongiorno dottor Giannino. Marco Ponti, docente di economia dei trasporti al Politecnico di Milano. E spesso abbiamo sentito il professor Marco Ponti. Marco Ponti è appunto di quelli, io lo chiamo per questo, e di quelli che ci inducono a qualche riflessione intorno a come si valutano i costi benefici di opere su alta capacità, alta velocità come queste. Buongiorno professor Ponti. Buongiorno, sì, io mi devo scusare perché sono in commissione a Bruxelles, per cui devo lasciarvi tra non molto. Ecco, allora cominceremo da lei, se è d'accordo. Dunque io vorrei dire questo: c'è stato già un grande progresso, nel senso che un progetto abbastanza insensato, che era fatto per l'alta velocità passeggeri, non esiste l'alta velocità merci, nella nuova versione costa molto meno ed è mirato alle merci, quindi è un po' meno catastrofico, ma da qui a definirlo prioritario così ne passa, perché comunque il traffico, la linea attuale porta 3 milioni di tonnellate all'anno, ne può portare 20 milioni, il traffico potrà ricominciare a salire, finora è sempre sceso, anche quella autostradale su quella direttrice, perché con quella parte della Francia scambiamo pochissimo. Ora potrà anche salire, ma definirla prioritario se la linea attuale che esiste già porta senza problemi 20 milioni di tonnellate, e secondo molti studiosi ne potrebbe portare assai di più, essendoci pochissimi soldi pubblici, mi sembra ardito, soprattutto perché poi da quell'investimento i ritorni finanziari sono nulli, cioè lo devono pagare tutti i contribuenti, quindi se no le tariffe vanno in paradiso. Quindi una delle osservazioni da fare è: non è che perdiamo come soldi, se non si fa perdiamo i soldi della Commissione Europea, guadagniamo i soldi che i contribuenti dovrebbero metterci, perché le stime del progetto precedente erano 22 miliardi, se l'Europa ne metteva poi 2 era un miracolo, questo progetto costa molto meno, forse se ne mette sempre 2 arriviamo al 15%, al 20%, qualcosa di quest'ordine, ma tutti gli altri li mettono i contribuenti. Ora, con così pochi soldi pubblici sono cose molto più urgenti di questa da fare, e con questo io non ho nessuna simpatia per i protestanti della Val di Susa. Se l'opera fosse davvero utile e urgente, prenderanno delle compensazioni per i loro danni, ma non potranno mettersi per traverso. Ma questa non è un'opera prioritaria, lo dice Moretti, l'ingegner Moretti l'ha detto molte volte, ed è difficile dubitare che le ferrovie, che devono ricevere questi soldi, li ricevono dai contribuenti paro, non mica ce li metto loro, che le ferrovie dichiarano non prioritaria o in alcune sedi persino inutile quest'opera. Dati i numeri ufficiali, io uso solo i numeri ufficiali. Lo stesso Virano dice che nel 2035 ci potrebbe essere la saturazione della linea storica. Lei dice... Sì, può essere tutto, ma se si satura quella linea, allora al Brennero o a Verona si satura tutta l'Italia, cioè i numeri sono quelli che le ho detto, passano 3 milioni, ne può portare 20 milioni, 20. Può succedere tutto, ma se i tassi di crescita sono quelli, ci sono comunque 30 opere più urgenti di quella da costruire. Cioè, mi sembra un ragionamento molto banale, questa è una linea deserta, diciamo così, e quindi se i tassi di crescita sono così elevati, ci sono cose che vanno in saturazione infinitamente prima, infinitamente sia di valico prima. Che non di valico. Quindi lei dice, oramai siamo alla pura riproposizione un po' da ambo le parti, di un puntiglio che dal punto di vista delle priorità, costi, benefici, in sé e per sé dovrebbe essere mollato a vantaggio di altre scelte, quindi ciò che si contrappone lì è un puntiglio, è una questione ideologica. Direi abbastanza di sì. Poi l'altro discorso del che gli industriali del Nord-Est se la pagano loro, voglio vederli a mettere quei soldi, visto che non ritorna niente dal traffico, cioè dall'uso, voglio vedere che loro mettono i soldi senza la garanzia di averli indietro dallo Stato, cioè dai contribuenti. Li vogliono mettere, si accomodino, però in realtà non li metteranno, chiederanno di avere poi un congruo ritorno, l'hanno già detto, di avere garantito un congruo ritorno. Siccome il congruo ritorno da quella linea nel Nord-Est non c'è, perché basta guardare i numeri, voglio vedere come va a finire, cioè sono quelle cose che costa poco a dirle, ma poi che si guarderanno bene dal farle. Mentre invece, professore, prima di abbandonarla poi al suo impegno istituzionale, se dovesse dire le priorità davvero strettamente in cima alla lista, alla luce dei prevedibili sviluppi, nel caso in cui noi dovessimo puntare, in altre parole, a una crescita che torna ad andare verso il 2% e quindi restando solidissimamente ancorati ai maggiori flussi del nostro export manifatturiero che fa il 70% dell'output potenziale, per tentare di essere meglio agganciati ai corridoi dell'Europa settentrionale, magari a disintermediare anche qualche porto nordeuropeo sui confini dell'Asia, e così via, le opere veramente prioritarie in questa prospettiva secondo lei quali sono? Ce lo ricordi? Ma di nuovo basta guardare i numeri, intanto il Brennero ha 10, costa la metà e ha il doppio del traffico, quindi e quello costa già un fulmine di soldi, non ci sono dubbi, ma poi bisogna guardarli questi benedetti flussi intercontinentali, internazionali. Il maggior problema dei costi per le imprese li trovano nella congestione delle aree dense che attraversano, mica sui valichi. Il 75% del traffico e dei costi per le imprese è per la congestione nelle aree dense, nelle aree metropolitane, il 75%, quindi occorre intervenire là dove ci sono i problemi e che esploderanno prima, perché siccome è già congestionato, il traffico locale è enormemente maggiore e più congestionato che il traffico di lunga distanza, la prima cosa da fare, e siccome se cresce la congestione per girare lì, la prima cosa da fare è intervenire laddove davvero c'è la congestione. La congestione è il maggiore indicatore della scarsità delle infrastrutture rispetto alla domanda e sicuramente le due cose che ho detto sono altamente prioritarie, cioè intervenire nelle aree dense dove c'è il 75% del traffico, dell'inquinamento e dei costi per le imprese, anche del traffico di lunga, nel senso che il traffico di lunga distanza è lì che trova i maggiori costi, è nell'attraversare i bottlenecks, le strozzature nelle aree dense, non sui valichi. Allora, noi ringraziamo il professor Marco Ponti, in effetti il passante, il ferroviario intorno a Torino è concepito e parte della Torino-Lione è concepito anche e proprio per questo. Naturalmente il professor Ponti si riferiva soprattutto al fatto che poi l'attraversamento dei punti densi in Italia avviene soprattutto su gomma e non su ferrovia, ma apposta ho voluto far precedere i punti di vista diversi su ciò che sta avvenendo a Chiomonte e in Val di Susa per l'ennesima volta col professor Marco Ponti, che ci dà un occhio alle priorità degli assi di collegamento internazionale. Ciò malgrado il nuovo progetto della TAV era un progetto con 4 miliardi di euro di sicuro risparmio rispetto al precedente, con tre sole opere prioritarie sul fronte italiano: il tunnel di base lungo 12 chilometri, gli altri 45 chilometri sono in Francia al confine, e poi 3 chilometri di interventi a Susa e poi i 14 chilometri tra Vigliana, Bottigliera e Orbassano, soli 29 chilometri di scavi al posto degli 81 chilometri che erano previsti dal progetto originario. Sentiamo con Enzo Ghigo, invece coordinatore regionale del PDL in Piemonte, a suo giudizio come stanno le cose, se questa volta c'è qualche speranza che le forze dell'ordine non siano comunque costrette a fermarsi come avviene dal 2005 e dal 2002 nelle prime origini in avanti, e a suo giudizio qual è la priorità vera per il Piemonte oggi, per il nord-ovest dell'opera? Bene, grazie dottor Giardino, la sua ricostruzione è stata come al solito molto precisa. Io voglio iniziare il mio intervento dicendo che secondo me in effetti qualcosa nel clima generale in Val di Susa è cambiato, nel senso che questa mobilitazione che era principalmente istigata da alcuni personaggi politici che fanno riferimento all'area del centrodestra, ma cioè del centrosinistra, mi perdoni, poi su questo ci tornerò, e dai centri sociali che oggi sono l'elemento di collante in tutte queste manifestazioni contro qualche cosa, mi sembra che questo fronte si sia un pochettino sgretolato, vuoi perché l'osservatorio ha fatto un buon lavoro, vuoi perché sono cambiati alcuni sindaci dei comuni della Val di Susa, vuoi perché comunque il progetto ha ridotto il suo impatto ambientale, di conseguenza l'approfondimento, la conoscenza, la informazione a fronte della disinformazione. Voglio ricordare che questi comitati NOTAV avevano veicolato messaggi di morte, di pericolo di vita per i propri figli, insomma c'era stata una strumentalizzazione veramente molto molto molto al di là di quello che era logico aspettarsi. Finalmente, dico io finalmente, queste bugie, queste falsità, al di là dei numeri che, come lei mi insegna, possono sempre essere letti in un modo piuttosto che un altro, ma i comitati NOTAV dicevano delle bugie, non facevano delle considerazioni come l'architetto Ponti sulla valenza economica di un'opera piuttosto che di un'altra. Dicevano che lì c'era pericolo di vita per gli abitanti della Val di Susa. Lei considera che la Val di Susa è una delle zone più depresse di tutto il nord, anzi forse direi la più depressa. Dal punto di vista della regione, io l'ho governata dal 95 al 2005, perciò ho vissuto tutta la fase preparatoria per arrivare a questo punto, devo dire, ricordando che la sinistra, soprattutto il Partito Democratico, fino a un certo punto guardava con interesse questi comitati, anzi secondo me li ha anche un po' aiutati a prendere spazio. Poi, come al solito, attraverso la politica dei due forni, in Val di Susa dicevano che erano contro la TAV, in pianura a Torino dicevano che erano per la TAV. Lo stesso alcuni organi di informazione, in modo particolare la stampa, ha esaltato questi movimenti NOTAV. Io ricordo alcuni articoli in cui persone come Perino e altri venivano quasi definiti degli eroi, e di conseguenza tutto questo ha fatto sì che crescesse questa sensibilità negativa nei confronti dell'opera. Negli anni, ci abbiamo messo 6, 7, 8 anni, il clima è cambiato. Io non posso dire con certezza che oggi non ci saranno dei disordini, probabilmente qualche disordine nel momento in cui le macchine vanno verso i cantieri della Maddalena ci potrebbero essere, però la mia personale sensazione è che il sentimento notav, quello drammaticamente presente qualche anno fa, si è un po' sgretolato e io penso e mi auguro che questi cantieri possano iniziare. Concludo dicendo che per il nostro Piemonte, facendo un po' di riflessione a proposito dell'argomentazione dell'architetto Ponti, il nostro Piemonte, la provincia di Torino, ha assoluto bisogno di quest'opera perché rimette in un certo senso tutta l'area manufatturiera legata all'automotive e non solo in diciamo rete con l'Europa e soprattutto per i prossimi 8 anni, questi sono studi fatti dall'Unione Industriale di Torino, la realizzazione dell'alta velocità incrementa dell'1% il prodotto interno lordo della provincia di Torino e questo rappresenta un elemento in un momento di forte crisi, perché la crisi manufatturiera è sicuramente più sentita qua a Torino. Noi abbiamo due grandi opportunità, quella della TAV e quella dei contratti di Mirafiori e della Bertone, che potrebbero obiettivamente essere realizzati, e noti bene, tutte e due sono a rischio di un atteggiamento mentale, mi passi il termine, del no, quello dei referendum di Mirafiori del no e della FIOM, quello dei notav che sono del no. Ecco, io credo che la nostra provincia, la nostra regione abbiano bisogno di incominciare a pensare, a dire dei sì e a dire diciamo e guardare la prospettiva di sviluppo attraverso anche un atteggiamento di positività. Ecco, io sono d'accordo con questa conclusione di ragionevolezza, perché in punta di numeri molti ascoltatori mi hanno detto: ah, come, quando Ponti ti smonta con i numeri però tu non sei più entusiasta dei numeri. No, io sono molto d'accordo e per questo vi ripropongo sempre l'architetto Ponti, perché ci riporta alla necessità di una visione di fondo quando le risorse pubbliche sono scarse e viviamo in anni in cui la componente degli investimenti purtroppo sul totale della spesa corrente è diminuita molto di più mentre la spesa corrente aumentava, e quindi Ponti ci serve ad avere questa bussola. La seconda questione però è che io mi ritrovo in chi dice: se oggi i nostri tassi di crescita, soprattutto laddove il manifatturiero è stato colpito di più dall'evoluzione internazionale, esempio l'auto, l'automotive, Torino, Fiat, tutto quello che sappiamo, non sa vedere necessità aggiuntive rispetto ai puri flussi attuali attualizzati in futuro, che potrebbero portarci magari, per la depressione dei traffici e come siamo stati colpiti dalla crisi, ovviamente semplicemente attualizzando le alloggi, anche a non vedere grandi correnti di traffico in sviluppo. Ma se ci portiamo a questo e abbracciamo l'idea, che è fortissima tra i notav, fortissima tra chi dice no a Mirafiori e a Pomigliano, l'idea che abbiamo semplicemente vissuto al di sopra delle nostre possibilità, abbiamo vissuto con un'appropriazione indebita da parte delle imprese rispetto di profitti, rispetto ai redditi da lavoro, che bisogna tornare indietro e ridiscutere tutto meno torta, discutendone la distribuzione. Ecco, io invece penso che sia molto ragionevole dire che non bisogna appiattirsi sulla condizione attuale, bisogna immaginare correnti di traffico nuove che ci facciano crescere di più, perfette, più ampie, di torta da distribuire. Qui veramente la questione non è più di numeri attualizzati, perché è una questione di approccio alle condizioni dell'economia italiana e del nord manifatturiero di oggi e del futuro. In altre parole, pensare per esempio che Torino non ha bisogno di qui a 10-15 anni della gronda merci di Torino per collegare Orbassano con Settimo Torinese, per chi è di quelle parti sa di cosa sto pensando, perché dice: tanto non ne abbiamo bisogno perché stiamo col sedere per terra, perché avremo bisogno di una gronda, non si satureranno mai le attuali infrastrutture ferroviarie. Ecco, significa abbracciare una prospettiva di declino, iniziando poi a discutere su di chi è la colpa e a chi bisogna dare di più di quel poco che resta. Ecco, io sono dell'idea che bisogna sempre immaginare che ce n'è di più che si può fare, perché se lo fanno gli altri possiamo farlo anche noi. In definitiva è anche questa la faccenda che divide oggi chi dice no e si oppone alle forze dell'ordine cantiere della Maddalena e le forze dell'ordine che hanno invece l'energico invito a fare sgombrare i manifestanti. Ecco, questa è la situazione nella TAV nord-ovest. A quella del nord-est io vi riepilogo invece i diversi tratti. Qual è la stima per oltre 15 miliardi del costo delle opere necessarie per realizzare l'alta velocità che arrivi in tutto il nord-est, quindi a coprire Verona, Padova, Venezia, Mestre, poi Venezia, Trieste, sud fino a Trieste, sono nei diversi tratti, servono 15,7 miliardi e di questi per il momento di finanziamenti ce n'è per 1.400 milioni, quindi c'è, resta un fabbisogno scoperto di 14 miliardi e 300 milioni. In particolare sulla Treviglio-Brescia, stima dell'opera 2 miliardi e 50 milioni, ce ne sono 1,13 invece che sono già stanziati, quindi è la parte fino a Brescia più coperta dai finanziamenti. Sulla Brescia-Verona, dove ne servono 2,8 miliardi, solo 53 milioni di finanziamenti. Sul nodo di Verona servono 670 milioni, ce ne sono solo 18 stanziati. Sulla Verona-Padova ne servono altri 5 miliardi e mezzo, ce ne sono solo 161. Sulla Venezia-Trieste servono 5 miliardi, ce ne sono solo 55. Quindi, come vedete, in realtà, ecco perché Moretti, l'amministratore delegato di Trenitalia e RFI, ha sempre detto: ma non mi sembra prioritaria neanche quella, cioè al massimo fino a Verona, ma in realtà per Ferrovie dello Stato, visto che i soldi lo Stato non ce li dà, la TAV a nord-est non è prioritaria. Per questo gli imprenditori del nord-est qualche settimana fa hanno levato il capo, tutti i presidenti dell'Unione Territoriale insieme al presidente del regionale Tomat, e hanno detto: no, qui noi non possiamo rassegnarci per l'importanza del flusso delle esportazioni che ha nella ripresa in tutte le nostre unioni industriali, noi non possiamo rassegnarci al fatto che ci si dica non c'è possibilità, abbiamo bisogno di picchiare i pugni, di immaginare un progetto in cui il project financing ha bisogno di tempi certi, quindi bassa impugnabilità, nuove clausole di supremazia nazionale per chiudere i tempi, che traggano lezione da quello che sta avvenendo da 20 anni a questa parte, la TAV Nord-Ovest. Ma noi su questo ci sentiamo di dire che con queste nuove regole e priorità ne abbiamo assolutamente bisogno, ci impegneremo noi ventre a terra a trovare più capitali privati, purché però le regole siano compatibili con il ritorno, i tempi di realizzazione e le stime di reddituralità degli investimenti che sono necessarie perché il capitale privato si impegni. Abbiamo qui con noi Franco Miller, che è presidente del gruppo Piccola Industria di Confindustria Verona della Commissione Infrastrutture di Confindustria del Veneto, e gli chiedo che possibilità ci sono che questa richiesta così energica dell'intero sistema veneto di Confindustria venga accolta, e che cosa immagina. Miller, mi sente? No, non ci abbiamo più Miller sulla linea 2? No, non ce l'abbiamo. Allora, mentre lo stiamo richiamando, chiediamo un secondo, andiamo un secondo con le telefonate dei nostri ascoltatori. Cominciamo con Federico, che chiama da Torino. Prego, Federico. Buongiorno, io voglio offrire una prospettiva francese alla nostra discussione, in questo senso: tra un anno si terranno le elezioni in Francia, il presidente Sarkozy, secondo i sondaggi circolanti a oggi, è molto in bilico per la sua rielezione, e siccome i Verdi francesi sono esplicitamente a favore della realizzazione del tunnel, per non perdere il pacchetto di voti stimato tra i 600.000 e gli 800.000 rappresentato dai Verdi, il presidente Sarkozy recentemente ha fatto sapere che è disponibile a risedersi al tavolo con il governo italiano per ridiscutere le condizioni di finanziamento dell'opera, e cioè quanti soldi usciranno dalle tasche di Parigi e quanti soldi usciranno dalle tasche del governo italiano. Ecco, a me interesserebbe, più che sapere come finiranno le elezioni del prossimo anno in Francia, ecco, come mai al di qua delle Alpi i Verdi sono esplicitamente contro la realizzazione dell'opera, mentre al di là delle Alpi i Verdi sono esplicitamente a favore. Per portare su rotaia il traffico merci che adesso circola su asfalto. Ottima domanda. Nel frattempo Miller lo abbiamo ripescato e do per scontato che mi abbia ascoltato, ma insomma stavamo partendo esattamente da la richiesta che l'intero sistema confindustriale del Veneto fa di un tavolo che dia tempi certi e ragionevoli rispetto alla penuria di copertura di tutta la TAV fino al nord-est, dicendo così non possiamo permettere. Cioè, gli chiedevo che cosa dell'esperienza della TAV nord-ovest vi induce invece a pensare che un appello come quello che avete lanciato e che sostenete energicamente possa essere raccolto, e a che cosa porterà. Prego Miller. Buongiorno dottor Giannino, quando lei parla di Confindustria e aziende che vogliono finanziare la TAV, è un po' un malinteso, perché tutto emerge dal documento di programmazione del Ministero delle Infrastrutture datato settembre 2010 relativo alle priorità infrastrutturali dal 2011-2013, dove sta scritto che le opere pubbliche negli anni 90 si realizzavano con il 90-95% di denaro pubblico e successivamente con il 70% oggi siamo al 50%. Noi abbiamo preso atto di questo fatto, di questa dichiarazione, e a fronte poi della chiarezza delle parole di Moretti, che ha sempre sostenuto che non esistono i finanziamenti per quest'opera, noi abbiamo fatto un'indagine nel mondo finanziario per vedere se c'era disponibilità da parte di questo settore a contribuire a finanziare un'opera così prioritaria come noi la riteniamo. Abbiamo ottenuto delle risposte positive. Allora, nel convegno di Casale sul Sile, dove abbiamo presentato questa idea, non è ancora un progetto, abbiamo voluto dire che c'è la possibilità di collegare l'iniziativa privata con l'iniziativa pubblica, e abbiamo chiesto semplicemente di organizzare un tavolo di lavoro che potesse permettere di discutere questa ipotesi e tradurla in un progetto. Ecco, questa è la sintesi, in altre parole, del che cosa vuol dire avere regole certe in base alle quali chiedere capitali che sono in eccesso, oggi sono ampiamente presenti sui mercati internazionali, alla ricerca delle migliori allocazioni di investimento, perché però questi capitali possano prendere in considerazione l'idea di sostituirsi a ciò che il pubblico non è più in grado di dare. Però ho l'obbligo di dire a Miller che moltissimi che pure ascoltano la radio, questa radio, di Confindustria, dicono: ma che, non c'è affatto bisogno di abbandonare questa prospettiva. Perché il sistema veneto ritiene che è necessaria l'alta velocità, l'alta capacità nel nord-est, a differenza di chi ritiene invece che anche lì bisogna mettere prioritariamente altrove le risorse? Veneto, Giannino, due sono le ragioni. Da Trieste a Milano oggi occorrono 5 ore e 40 minuti. Da Venezia a Milano occorrono 2 ore e 50 minuti e sono solo 270 chilometri, e quindi sono tempi eccessivamente lunghi per quanto riguarda un normale trasporto passeggeri. Ma quello che è molto più importante è da tenere in considerazione è dovuto al fatto del traffico merci. Nel 2012 verrà aperto il raddoppio del canale di Suez, con la possibilità di far passare delle navi super porta container fino a 10-12 mila TEU. Queste navi potrebbero arrivare nel nord Adriatico e quindi poter utilizzare una rotta più breve rispetto a quella nord europea, ma per portare questi container nel nord Europa non possiamo farlo su gomma, perché significherebbe gravare le autostrade, particolarmente la 4 Serenissima, di 1500-2000 tir al giorno, quando noi sappiamo che da uno studio effettuato recentemente dalla società Brescia-Padova la stessa autostrada andrà in saturazione nel 2014. Quindi abbiamo delle priorità dovute allo sviluppo dei traffici, non solo interni dovuti alla crescita del comparto industriale, del comparto produttivo, ma anche traffici di attraversamento che comunque costituiscono una ricchezza. In pratica, con l'allargamento del canale di Suez si potrebbe dire che si potrebbe ripristinare la rotta di Marco Polo. Già adesso alcune navi porta container da 4500 TEU fanno la spola tra Cina, India e Nord Adriatico. È una rotta che ha avuto così inizio verso il settembre del 2009. Le imprese stanno chiedendo un aumento di frequenza. Adesso arriva una nave ogni 8 giorni. Le imprese chiedono un aumento di frequenza perché hanno trovato estremamente conveniente questa rotta. Quindi il motivo è duplice: passeggeri e merci. Ecco, è una risposta chiara che antivede il futuro, perché o il sistema porti nord Adriatico, questo sono d'accordo, si mette in condizioni di avere un retroterra agganciato che consenta di disintermediare i flussi del Nord Europa, oppure siamo condannati a non poter intercettare questo flusso aggiuntivo. Questo significa saper programmare con attenzione i flussi di transshipment, e di questo dovremmo naturalmente fare del nostro sistema poi portuale un ragionamento complessivo. Ce ne siamo occupati tante volte, ora andiamo alle informazioni sulla circolazione stradale. Intanto le ultime sono che polizia e carabinieri sono arrivati nei pressi del campo base di Notava davanti all'Ecomuseo nell'area della Maddalena a Chiomonte, dove dovrebbe nascere il cantiere appunto del Torino Limone. Quanto si apprende, le forze dell'ordine lanciano alcuni lacrimogeni nel piazzale del presidio, mentre sembra che gli amministratori stiano tentando una mediazione. Le forze dell'ordine fanno sapere che si è verificato un fitto lancio di pietra contro la maestranza della polizia. Il lancio quindi dei lacrimogeni è stata una risposta a quelle che sono state alcune bombe carta che hanno danneggiato i mezzi all'opera e alcuni mezzi delle forze dell'ordine delle strade, alcuni mezzi delle stesse forze dell'ordine in strada. Alla strada dell'Avanà riferisce la polizia cosparsa di chiodi a quattro punte, nonché ricoperta di liquido oleoso al fine di rendere scivoloso il terreno e difficile l'avanzata del convoglio delle forze dell'ordine stesse. Infine, a quanto riferiscono invece i manifestanti, sembra che alcune tende barricate centrali abbiano preso fuoco, quindi insomma le notizie non sono esattamente improntate a un confronto civile da parte dei notabili delle forze dell'ordine. C'è esibizione muscolare. Eccoci tornati in studio, un orecchio attento a quello che avviene alla Maddalena in Val di Susa. Nord Tav, Nord Ovest, i punti di vista contrapposti. Tav Nord Est, gli imprenditori che dicono dobbiamo metterci in condizione di imparare da tutto ciò che ci impedisce di fare le regole capaci di realizzare infrastrutture in tempi certi, come avviene nel resto del mondo avanzato, adeguarci perché i capitali privati a quelle condizioni vengono, altrimenti pubblici non ci sono e non ci saranno, privati nemmeno. Sentiamo come la pensano alcuni di voi. Cominciamo con Gianfranco, che è in linea da un po' di tempo e ci chiama da Genova. Prego Gianfranco. Ma io penso che il corridoio europeo aveva una direzione est-ovest, sì, e viceversa. Allora, perché non seguire un altro percorso che è molto logico, e cioè fare Milano-Genova-Nizza? A Nizza c'è già la TAV francese. E a questo punto noi tra l'altro avremmo il grosso vantaggio di facilitare gli scambi con il sud della Francia e nello stesso tempo migliorare il rapporto fra Genova e Milano per quello che riguarda le operazioni portuali. Secondo me questo è il percorso alternativo se la TAV Val di Susa non va in porto. Gianfranco, a Genova sai perfettamente che il terzo valico, leggo dei giovi, quello necessario poi per il potenziamento per impedire l'asfissia altrimenti del porto di Milano per quello che riguarda gli scambi intercommerciali di Teu con Nord Europa e con Milano, è bloccato per questa stessa questione, perché in realtà è rimasta priva di risposta nel cadere di priorità che aveva la TAV Torino-Lione progressivo negli anni, come lo stesso Moretti di Ferrovie ammetteva. Questa seconda strada, più logica da un certo punto di vista, anche se con un impatto difficile da valutare perché non si può potenziare la linea costiera, quindi le linee di potenziamento sulla linea attuale non risolverebbero in realtà il problema, questo è il punto. Però la questione che poni è rimasta senza una risposta. Tant'è vero che poi il finanziamento alle opere del Terzo Valico mancano anche lì, esattamente per quello, perché non se ne conosce la vera strategicità, che aumenterebbe molto nel caso in cui invece il percorso settentrionale del corridoio TEN-5 cadesse, nel caso in cui non si facesse la Torino-Lione. Sentiamo Nicola che chiama da Milano. Prego Nicola. Buongiorno, niente, io non sono né favorevole né contrario, cioè vabbè, a me non mi interessa, che sono di Milano, non ho più la passione del viaggio, per cui io farei come per nucleare, cioè la maggioranza vince, basta votare, è semplice la questione. Io sono buddista e penso che la gente deve decidere, cioè non si deve imporre. Nicola, noi abbiamo scelto il tuo punto di vista, credo che chi fa la selezione ascolto, esattamente perché io credo che il tuo punto di vista sia molto diffuso. Naturalmente io ho qualche fatica a dire sono di Milano, non mi interessa, ma voglio decidere, perché io penso che poi per decidere questioni di questa complessità la faccenda, come nel nucleare nell'energia, mette in gioco una mole così complessa di elementi che vanno valutati con attenzione, perché dal bilancio energetico di un paese al bilancio trasportistico, a fronte di una valutazione realistica degli investimenti che si possono fare, io penso che i paesi complessi li devono sciogliere questi nodi con responsabilità, con equilibrio, ma guardando bene ai problemi. Io non sono per la semplificazione dal basso. Io non penso che gli strumenti di democrazia diretta servano a decidere gli investimenti, servono a definire i grandi assi di fondo, ma come te la pensano in molti, e pensano che la democrazia sia la democrazia di base e che con quello si fanno le grandi scelte dell'economia. Per me si danno solo alcuni indirizzi di fondo con gli strumenti di base. La democrazia diretta si fa sui grandi problemi di coscienza, sulla la vita, la libertà privata, la proprietà, le tasse, qui non ce lo impediscono sulle tasse, molti invece pensano che lo si faccia anche sui tratti autostradali, e per questo in definitiva ciascuno poi ha diritto in quanto comunità locale a dire di no. Io penso che ci devono essere delle priorità anche nazionali. Raffaele dalla provincia di Torino, mi scuso, ma come avete capito dalla musica ormai mi interrompono, fino a quando mi interromperanno per sempre, fate il conto alla rovescia. Occhio alle edizioni del Giornale Radio, a cominciare dalla prossima, per ciò che avviene naturalmente al cantiere tra Forza dell'Ordine della Maddalena e Notav oggi. A domani nel Giornale Radio. Falqui, basta la parola.